dal blog di Marta intitolato Diario sulla via della pace. 17 febbraio 2008, ore 4:50 del pomeriggio. Dall'ospedale. Carissimi, grazie per i vostri messaggi e soprattutto preghiere. Il mio cammino con il Signore continua in questa permanenza in ospedale, nel reparto di cure palliative. Ogni giorno imparo nuove cose a riguardo della presenza di Dio con me e con il mondo. Credetemi, ho bisogno delle vostre preghiere. Confessatevi, ricevete la comunione e pregate anche per me. La malattia si fa avanti, ma il Signore mi colma di consolazioni. Claudio e Ada del monastero mi sono vicini. A tutti voi altri dico, sono con voi. Questo blog è una grazia che mi permette di comunicare anche con le persone che mi vogliono bene. Marco, Etra, Fabio, Elisabetta, Chiara, Carla e tutti, non posso scrivere i vostri nomi, lo sapete, che vi penso con affetto. Adesso devo andare. Un forte abbraccio nel Signore Gesù e tanta benedizione su di voi e per quello che fate. Che la Madonna, la nostra mamma, vi sia vicina. A presto, la vostra Marta. È stato, ricordo, l'ultimo messaggio in cui, in maniera esplicita dunque, nel suo blog Marta ha menzionato la piccola esperienza del monastero online che oggi, stanotte per essere precisi, fa registrare il suo 1000° giorno di navigazione nella rete. Marta ci ha stupito e soprattutto perché con un cuore di bambina ha saputo cogliere ciò che poteva costituire una novità di tipo personale e spirituale all'interno di quella che era una delle sue normali attività negli ultimi anni. Lei, esperta di religione, professoressa universitaria, aveva colto in questo piccolo ritrovarsi insieme nella rete per pregare almeno qualche volta al giorno, nel suo caso qualche volta alla settimana, causa la malattia molto pesante, ecco, quella novità che poteva aprire a un più ampio spiraglio alla speranza di cui tutti noi siamo reciprocamente debitori gli uni agli altri se viviamo la fede. Ma mi colpiva molto nell'attività che ha svolto in internet, a vantaggio di tante persone che magari questa fede cristiana non hanno e non condividono, la sua delicatezza e la capacità di credere fino in fondo a quel barlume di grazia che Dio ha posto nel cuore, nel profondo del cuore di ognuno. E i suoi interventi nei forum, soprattutto quelli religiosi, le sue battaglie anche per certi aspetti con chi disperato si trovava a deridere la sua visione delle cose, ecco, mi hanno sempre fatto intravedere un amore speciale per Dio e per la Madonna in lei. Marta era un'innamorata di Dio. Ecco che sia stata uno dei fondatori del monastero, del piccolo monastero online, ci dà una grandissima gioia ed è ricordando lei che vogliamo augurare al monastero stesso ancora lunga navigazione. Pace e gioia a tutti.